Mi chiamo Enrico, vivo ad Ancona, sposato, 51 anni, due figli, uno di 18 anni, si chiama Andrea, l'altro Matteo di 16. Come lavoro faccio il pescatore di vongole.